ma ce avete figli all'abbadia, non le chiancete no, che sussarvate. Chiancite chi di te la vicaria, chi sono prevede la libertà di. Ma c'è che avete figli carcerate, e di alla vicaria e le vedete. Noi siamo dall'inferno condannati, e voi maciozzi fora che piangete. Noi siamo dall'inferno condannati, e voi maciozzi fora che piangete.